27. Minestra di latte composta. Farina grammi 60, burro grammi 40, parmigiano grammi 30, latte decilitri 4. Uova numero 4, sale quanto basta, odore di noce moscata se piace. Mettete il burro al fuoco e appena squagliato versate la farina, mescolate e quando comincia a prendere colore versate il latte a poco per volta. Fate bollire alquanto, poi ritirate il composto dal fuoco e conditelo aggiungendo le uova per ultimo quando sarà ghiaccio. Cuocetelo a bagnomaria come la minestra di semolino numero 15 e regolatevi come per la medesima. Questa dose potrà servire per 8 o 10 persone.